Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Il comparto lattiero caseario figura al primo posto del Made in Italy alimentare, con un fatturato di oltre 14 miliardi all'anno. Tutto questo fare formaggi lascia sul campo 8 milioni di tonnellate l'anno di siero di latte, il quale è classificato come rifiuto speciale a causa del suo alto carico inquinante, inquinamento organico ma pur sempre inquinamento, e come tale siero di latte, quindi come rifiuto speciale, richiede di essere smaltito, cosa che tipicamente avviene a titolo oneroso. In realtà il siero di latte è ricco di sostanze e principi attivi che si sta cercando di utilizzare in vari modi. Ne parliamo con Federico Baruzzi, ricercatore dell'Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari del CNR di Bari, che recentemente ha svolto una ricerca proprio su questo settore. Buonasera Baruzzi. Buonasera a lei e un saluto ai radioascoltatori. Senta, le chiedo subito, che cosa contiene il siero di latte e in particolare che cosa lo rende un rifiuto speciale? Il siero di latte contiene all'incirca 7 grammi di proteine ad alto valore biologico, importanti dal punto di vista nutrizionale. Ciò che però lo rende un rifiuto che è necessario smaltire secondo i corretti canali di rifiuto speciale è la sua alta concentrazione in zuccheri, in particolare in lattosio. Possiamo dire che un litro di siero contiene all'incirca da 45 a 48 grammi di lattosio. In pratica tutto il lattosio presente nel latte. Nel latte. Qui uno dice perché degli zuccheri inquinano, ma insomma tutte le sostanze organiche quando sono disperse in piccole quantità non creano problemi, quando sono molto concentrate scatenano delle risposte di tipo ambientale, no? Questo vale per le deiezioni naturalmente, ma vale per le scorze d'arancia, vale anche per il siero di latte naturalmente. Senta, quali sono le possibili strategie per valorizzare questo scarto? Allora, il siero di latte è ricco di componenti nutrizionali e bioattivi. Nei nostri istituti, ma un po' in tutta Italia, in tutta Europa, vi è la continua ricerca della sperimentazione e valorizzazione dal punto di vista nutrizionale, ma anche per il beneficio della salute umana, delle componenti bioattive del siero. Le faccio un esempio. Sì. Il siero è ricco di aminoacidi solforati, di aminoacidi ramificati e di una serie di peptidi che hanno delle attività biologiche, in particolare abbassano la pressione arteriosa, possono funzionare come blandi oppiacei, hanno delle capacità antimicrobiche, per cui tutta una serie di proprietà aggiuntive a quelle nutrizionali. Ci sono diverse tecnologie di estrazione delle proteine e poi vengono realizzati degli opportuni procedimenti enzimatici per la produzione di questi peptidi, si chiamano peptidi bioattivi. D'accordo, quindi insomma proprietà diciamo di tipo farmacologico o nutrizionali molto, molto particolari. Un'altra possibilità invece è quella di utilizzare il siero di latte per produzione di biogas o bioetanolo, che è quella che voi avete analizzato con maggiore diciamo, profondità nella vostra ricerca. Quali sono le conclusioni del vostro lavoro? Che per quanto sia interessante e per quanto sia utile studiare le proprietà biologiche di questi peptidi, rimane sempre una grande quantità di siero ancora da smaltire e comunque il problema del lattosio rimane inalterato, visto che io recupero le proteine dal siero, ma rimane tutto lo zucchero presente. Per cui che cosa le tecnologie attualmente disponibili e le ditte con le quali collaboriamo stanno valutando impianti dedicati per la trasformazione del siero in biogas o del siero in bioetanolo. Tenga presente, per fare un piccolo conteggio di quelli che abbiamo fatto con su alcuni impianti rilevati, che all'incirca possono essere prodotti da 100 tonnellate di siero o di scotta, cioè quello che rimane dalla produzione della ricotta, circa 1500 metri cubi al giorno di biogas, che equivale più o meno al consumo annuo di 1000 persone. Circa il 75% del fabbisogno energetico del caseificio è risolto tramite il riutilizzo dei sottoprodotti di lavorazione, siero e scotta appunto. E da un punto di vista diciamo della gestione di questo processo è particolarmente complicata o insomma è alla portata? Allora, è un processo nuovo che il caseificio ha difficoltà effettivamente a gestire in maniera autonoma, ma La realizzazione dell'impianto prevede una serie di, la formazione di una serie certo, di figure certo. che ne permettono il normale, una normale gestione. Normale. Tra andare in direzione, diciamo, della produzione di biogas e quella di biocarburanti, cosa cambia principalmente? Sicuramente un impianto a biogas ha un costo e una difficoltà tecnica maggiori di quello di un bioetanolo. Comunque anche a delle rese energetiche maggiori. Va bene, grazie allora Federico Baruzzi. Grazie a lei e un saluto a tutti. È tutto, a lunedì.